Già nel 2013 qui a Melfi inizierà la costruzione del nuovo stabilimento. Nel 2013 inizierà anche la costruzione di 3 nuovi modelli in Italia, tutti destinati anche ai mercati mondiali. La Maserati Quattro Porte, la Maserati Ghibli, entrambe assegnate allo stabilimento di Giugliasco, e l'Alfa Romeo 4C che sarà costruita nell'impianto di Modena. E qui a Melfi in particolare verrà installata la nuova piattaforma Small Wide, che è una delle 3 architetture chiave per la Fiat Chrysler. È stata creata in Italia dalla Fiat e ulteriormente sviluppata nell'ultimo periodo come base per tutti i futuri modelli di segmento B e BUV del gruppo. Si tratta di una piattaforma modulare che può essere facilmente adattata per costruire vetture di dimensioni anche maggiori. È stata impostata con contenuti di prodotto che rispondono anche alle normative americane in modo da esportare i veicoli senza ulteriori cambiamenti. All'impianto di Melfi verranno destinati 2 modelli totalmente nuovi, la cui produzione inizierà già dal 2014, quando avremo completato i lavori di adeguamento dell'impianto. Se siamo qui oggi è perché abbiamo scelto la strada del coraggio. Abbiamo già dimostrato più di una volta in passato che i momenti di crisi possono diventare occasioni da sfruttare, occasioni per fare qualcosa di nuovo, per gettare le basi di un futuro diverso. E nelle difficoltà che occorre avere visione, riprendere in mano la situazione e ripensare a volte anche a se stessi. Qui ho parlato di una scommessa che stiamo facendo sull'Italia, ma non si tratta di una strategia azzardata. Sul piatto mettiamo impegno, investimenti, la determinazione a raggiungere i risultati che ci ha sempre guidato. E mettiamo le capacità tecniche dei lavoratori italiani. Abbiamo intenzione di toglierci dalla mischia dei marchi generalisti ed andare a competere nella parte alta e meno affollata del mercato. È una scommessa che facciamo sapendo che ne abbiamo la forza e che possiamo contare su alcuni vantaggi concreti. Il primo è il fatto che possiamo mettere in gioco tutte le nostre competenze ed eredità migliori perché abbiamo in casa il prestigio e la qualità di chi, come la Ferrari, ha definito l'alto di gamma in tutto il mondo. Secondo, il fatto che l'insieme di Fiat e Chrysler ci ha dato la capacità di sviluppare negli ultimi 3 anni architetture e motori che saranno all'avanguardia per il segmento premium. E il terzo, il fatto che la Fiat oggi, grazie a Chrysler, ha una presenza globale che ci dà accesso tanto ai mercati del Nord America che a quelli asiatici. E ci offre la possibilità di sfruttare parte della nostra capacità produttiva per le esportazioni.